Dario Di Vico, l'Italia dei piccoli, qual è l'Italia dei piccoli? Beh, l'Italia dei piccoli è sicuramente le piccole aziende, ma non solo, sono le partite IVA e in qualche maniera sono i professionisti, cioè in sostanza quelli che tutte le mattine aprono uno studio professionale o un'azienda o aprono anche solo il computer da casa per iniziare un'attività economica e hanno un riconoscimento debole, diciamo, spesso sembrano appunto degli invisibili, come li ho definiti. Perché sembrano invisibili? Cosa li rende invisibili? Li rende visibili una rappresentazione del paese che è ancora troppo centrata sul binomio grande impresa, grande sindacato. Rimane una sorta di pregiudizio nei confronti del lavoro autonomo che purtroppo è difficile da superare. Ecco, il lavoro autonomo, i piccoli, come hanno reagito alla crisi? Come l'hanno attraversato? Sono stati, immagino, ulteriormente depotenziati? Beh, hanno resistito, cioè sono state imprese che hanno resistito e quindi sono riuscite a limitare i danni facendo sacrifici importanti, in qualche caso mettendo risorse in azienda, evitando di licenziare, hanno licenziato molto meno di quanto abbiano perduto in termini di fatturato e quindi contrapponendo, diciamo, dei valori alla crisi. Naturalmente tutto questo non basta. Quali dovrebbero essere le risposte? Beh, dopo la resistenza bisogna individuare però dei filoni di iniziativa che aiutino le piccole imprese, ad esempio le aggregazioni, ad esempio una maggiore focalizzazione sui mercati emergenti che sono quelli che crescono di più, un rapporto più positivo con il sistema bancario, più proficuo. Ecco, come dire, la capacità di resistenza dimostra la tenacia, la caparbietà e, ripeto, un apparato valoriale importante, però la crisi non solo noi non sappiamo quando finirà del tutto, ma sicuramente cambia il sistema produttivo e quindi la piccola impresa deve anche cambiare per reggere meglio l'urto.